Ti amo. Amore, sarai mai pronta a ritornare? Amore, mi manchi. Se non mi ami, sto molto meglio senza di te. Se mi lasci andare, sto molto meglio senza di te. Ti amo, amore, sarai mai pronta a ritornare? Amore, mi manchi, mi manchi.